21. I guerrieri si fermarono sulla riva del torrente. Qualcuno pestò la terra melmosa sul fondo. Dalla montagna scendeva appena un rivolo d'acqua. Joseph scambiò un'occhiata con Saki e Nakenta. Si voltò verso la Croix, che fissava il bosco sull'altra sponda. «Che fine ha fatto il fiume?» chiese la voce di Peter, dietro di loro. Joseph tacque. Aveva bisogno di riflettere. Erano andati in avanscoperta per aprire la pista alla spedizione che si apprestava ad attraversare il lembo di terra tra il Mohawk e il Wood Creek. Quel luogo era Deo Wainista, il grande trasbordo di canoe. 4 miglia di boschi, gli averi sulle spalle, le barche trascinate su slitte di legno. Avrebbero impiegato almeno 2 giorni e senza il fiume sarebbero rimasti bloccati. «Possiamo scendere giù fino a che non troviamo l'acqua», suggerì Saki e Nakenta. Joseph scosse la testa. «Con il carico è troppa fatica». Se fossero tornati indietro con la notizia che non c'era acqua per far navigare i battelli, parecchi avrebbero rinunciato al viaggio e sarebbero tornati a casa. Joseph non poteva permetterlo. «Non è un periodo di siccità. Un fiume non sparisce da un giorno all'altro». La Croix indicò la montagna. «Ma tronchi e fango possono rapirlo per molto tempo». Peter prese a salire l'argine pietroso. «Allora troviamolo», disse. La soluzione del mistero giunse un'ora più tardi. Un mulino. Le acque svogliate del fiume scivolavano nella vasca mezza piena. Qualcuno spaccava legna su un ceppo, sul retro della costruzione. I guerrieri si avvicinarono, cauti, senza fare rumore. Era un uomo basso e tarchiato, folta barba, un curioso cappello di pelliccia pezzata bianca e marrone. All'improvviso si fermò, posò l'ascia e si allungò a raccogliere il moschetto. Lo puntò sugli intrusi. «Chi siete? Non siete Oneida?» Joseph alzò la mano in segno di saluto. «Siamo Mohawk di Canajoharie. Andiamo a Oswego con un convoglio di barche». L'uomo grugnì e strizzò gli occhi senza abbassare l'arma. «Allora siete qui per il fiume?» Accento olandese, sguardo miope. Joseph annuì. «Il mulino è vostro?» Il mugnaio emise un grugnito d'assenso e lanciò occhiate storte agli altri guerrieri. «Mi chiamo Jan Horn. Ci vuole ancora mezza giornata per riempire il bottaccio, a Dio piacendo. Dove siete accampati?» «Fort Stanwix». «Allora potete stare tranquilli. Quando avrete finito il trasbordo, il fiume sarà di nuovo in piena da un pezzo. Ditelo a quelli laggiù». Si appoggiò al ceppo senza abbassare il fucile. «Vi faccio un buon prezzo. 3 scellini a battello. Vanno bene anche polvere, carne salata, farina. Niente rum. Un barile di quella broda non vale un boccale della mia birra». Jethro Canenonte disse qualcosa in Mohawk indicando la cisterna. Joseph si rivolse di nuovo al mugnaio. «Dice che state derubando il fiume, e io penso che abbia ragione». L'olandese grugnì ancora. «L'acqua nel fiume è del fiume. L'acqua nel mio bottaccio è la mia acqua. Il padre di mio padre acquistò questa terra con regolare contratto nell'anno di grazia 1701. La mia famiglia ha sempre vissuto in pace con gli inglesi del forte e con gli indiani. Mio fratello ha sposato una Oneida. Non abbiamo mai avuto noia con nessuno, a Dio piacendo». Peter intervenne d'impeto. «Cosa ci impedisce di aprire una diga senza il vostro permesso?» Il mugnaio scosse la testa. «Non vi servirebbe a niente. Quando il torrente è in secca, bisogna accumulare abbastanza acqua per inondare il letto giù a valle. Noi la raccogliamo nel bottaccio, facciamo andare le macine e cerchiamo di dosarla quanto basta perché le barche possano navigare. Se aprite le paratie adesso di colpo, riuscirete a girare la prima ansa del fiume, ma poi vi ritrovate di nuovo in secca». Indicò la vasca del mulino. «Troppo poca, vedete?» Abbassò il fucile e sedette sul ceppo. «Quanti battelli avete?» Joseph estrasse dalla bisaccia un pezzo di tabacco e ne offrì all'olandese. 30. L'olandese azzannò il tabacco e parlò con la bocca piena. 4 sterline, un prezzo di favore. Quasi 2 corone di sconto. Affare fatto, signor Horn. L'olandese storse la bocca in quello che voleva essere un sorriso. A Dio piacendo. Dovete firmare una ricevuta per il dipartimento indiano. Il mugnaio guardò il foglio e la piccola mina che Joseph gli porgeva come fossero oggetti stregati. Impugnò il lapis e tracciò una grossa X sul pezzo di carta. «Molto bene!» Canenonte rise indicando il berretto dell'uomo. «Cappello buffo!» disse, in un inglese stentato. Il mugnaio se lo tolse e lo accarezzò con le mani. «Eh già, il vecchio Goose!» L'indiano offrì il suo coltello in cambio del cappello pezzato, ma l'olandese se lo calcò sul capo con aria risentita. «No, signore! Mi dovranno ammazzare per togliermelo dalla testa! Era il miglior cane da caccia che abbia mai avuto! Sì, signore! Gli volevo bene!» Joseph lo scrutò. Forse era più vecchio di quanto sembrasse. Mani nodose, pochi denti e vista scarsa. «Vivete solo, quassù?» chiese. L'olandese annuì. «Mio fratello e sua moglie se gli è presi la febbre. Fanno 3 anni, a settembre. Il vecchio Goose, invece, me l'ha ammazzato un orso, l'inverno scorso». Toccò ancora lo strano cappello da cui sventolavano 2 orecchie flosce. «È un vero peccato, perché mi teneva compagnia ed era proprio come se capisse. Sì, signore, capiva tutto quello che gli dicevo, a Dio piacendo. L'orso l'ha aperto da parte a parte, il povero Goose ha sparso le budella fino a casa. Dargli il colpo di grazia mi è costato, ma non c'era più niente da fare. Prima di seppellirlo l'ho scuoiato e con la pelliccia ho fatto questo cappello per ricordarmi di quanto era in gamba quel cane. Sì, signore, e adesso sono rimasto solo a tenere dietro al mulino». L'uomo sembrò ricordarsi di qualcosa. «È vero che c'è una rivolta?» Gli indiani si fecero silenziosi. «Potrebbe scoppiare una guerra», rispose Joseph. «Un'altra? Spero che stavolta sia contro il Massachusetts. Peggio dei francesi, quelli là. Sempre a parlare di Dio, ma se possono fregarti lo fanno più che volentieri». Sputò per terra. «Non che quelli di Albany facciano meno schifo. A Dio piacendo, mi tengo il mulino e si scannino pure quanto vogliono». Joseph sorrise. Peter gli fece segno che l'olandese doveva essere matto. Joseph si accorse che la Croix fissava gli alberi attorno al mulino, il mento appena sollevato. Si avvicinò. «Rientriamo», disse la Croix. «Il bosco non è sicuro». Peter avvertì un brivido. Anche sua madre, a volte, parlava così. Frasi che lasciavano intuire una minaccia indistinta, quindi più spaventosa. D'un tratto ebbe voglia di andarsene da lì. Era stato il primo a salire, fu anche il primo a scendere.